Radio 24 Reportage. Milano lancia la sfida per conquistare l'Agenzia Europea del Farmaco. Di Andrea Ferro. Il Pirellone, simbolo di Milano, svetta imponente e segna la verticalità e l'impegno della sfida ingaggiata. Farlo diventare la sede dell'Agenzia Europea del Farmaco, che nel 2019 dovrà lasciare Londra. L'ordine di sfratto è una conseguenza della Brexit. 900 dipendenti, 300 milioni di budget, punto di riferimento per centinaia di ricercatori. Prospettiva che conta non solo in termini di ricadute strettamente economiche, è una questione di prestigio, varrebbe come il riconoscimento della città e della sua storia, del suo dinamismo, di uno stile di vita che è cifra e originalità. Una sfida, si diceva, perché la gara è incertissima, i potenziali partecipanti sono tanti, almeno 22 città, la lista ufficiosa, le candidature dovranno essere formalizzate nelle prossime settimane, comprende capitali come Vienna, Amsterdam, Copenaghen e Stoccolma, e poi ci sono Barcellona, Bonn, Lille, giusto per citarne alcune. Le grandi manovre sono in atto, come i sospetti che aleggiano su possibili accordi sottobanco, scambi, spartizioni, giochetti a favorire l'uno piuttosto che l'altro in un incrocio di sospetti ed incastri geopolitici. L'arbitro, che si spera impermeabile ad ogni pressione, è il Consiglio europeo. Deciderà con voto segreto nella seconda metà di novembre. Quindi la partita per l'Agenzia europea del farmaco è ancora piuttosto lunga e tutti dovranno giocare bene le proprie carte. Milano ha iniziato a calare le sue direttamente dal Pirellone, come si diceva prima, sede designata dell'Agenzia. Al 31° piano l'altra mattina è stata svelata la prima, se vogliamo più che un numero, un simbolo, il segnale di una coesione che valica gli steccati, che come raramente accaduto in passato dalle nostre parti rende l'idea di una scelta e di una volontà finalmente di sistema. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni accanto al sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Roberto Maroni a sostenere la candidatura con la determinazione di chi scende in campo con un solo obiettivo. Così Gentiloni. Siamo di fronte a una grande opportunità per il Paese e un'opportunità per Milano e per la Lombardia. Direi anche una grande opportunità che Milano e il nostro Paese mettono a disposizione dell'Europa, perché senza falsa modestia credo che possiamo dire che questa candidatura ha i requisiti per essere anche un'occasione per l'Europa e non solo un'occasione per noi. Noi non saremo decubertiniani in questa partita, con tutto il rispetto naturalmente per lo spirito olimpico, ce la giochiamo per vincere. Sappiamo che le partite si vincono e si perdono, ma questa partita Milano, la Lombardia e l'Italia la giocano per vincere. Abbiamo le condizioni per farlo, penso che le risorse, le qualità che abbiamo messo in campo, il gioco di squadra che anche l'iniziativa, la presentazione di questa mattina mette in evidenza, ci dicono che questa partita non solo la dobbiamo giocare, ma la possiamo vincere. Il dossier da presentare a Bruxelles è pronto, riassume le potenzialità di Milano, la sua tradizione, la sua forza produttiva, la sua vocazione per la ricerca scientifica, il suo appeal nel mondo, la sua posizione geografica che garantisce collegamenti eccellenti. Il Consiglio europeo dovrà esaminare le candidature sulla base di 6 criteri di valutazione. Sentiamo quali sono da Enzo Moavero, che è il consulente della Presidenza del Consiglio per l'operazione EMA. 5 sono dei criteri che fanno riferimento alla capacità di accoglienza della città, quindi riguardano naturalmente l'edificio in cui può essere ospitata l'agenzia, riguardano i collegamenti nei trasporti, aerei, ferroviari e quant'altro, riguardano anche la possibilità per i circa 900 dipendenti di EMA di trovare casa per loro, per le loro famiglie, quindi c'è anche una questione di scuole. E c'è una questione di capacità alberghiera, perché l'Agenzia del Farmaco Europea ha circa 500-600 interlocutori al giorno, quindi c'è un bisogno e una possibilità di trovare, diciamo, alloggio per coloro che vengono per interfacciarsi con l'Agenzia per motivi di affari. Dopodiché il 6° criterio fa riferimento al vecchio accordo che esisteva tra gli Stati europei di distribuire quanto più possibile queste agenzie sul territorio. Naturalmente questo è indispensabile richiamarlo, noi però sottolineiamo che qui si tratta di agenzie già operative e di conseguenza è

ma tutto il resto noi l'abbiamo, abbiamo un dossier buonissimo. Abbiamo una città che vediamo qui dal Pierellone, bellissima. La città è molto centrale, siamo vicinissimi ai laghi, al mare, alle montagne, che è importante per le famiglie. Abbiamo una vita culturale cui non riusciamo a star dietro, tanto è vivace. Abbiamo il posto per i giovani, andiamo sulla Darsena e nelle zone di Brera. Io credo che abbiamo tutto. La concorrenza è agguerrita. Certo, la concorrenza è agguerrita, però abbiamo anche il governo. Milano, città di saperi e di università, laboratorio di idee, giardino per talenti e per opportunità innovative, conoscenza ed esperienza, studio e lavoro. Questo sistema, l'Agenzia Europea del Farmaco, rappresenterebbe un altro tassello, come ci dice il rettore della statale Gianluca Vago. Questa è una partita molto importante per Milano, per quello che rappresenta EMA e per quello che rappresenterebbe per la città e per tutto il tessuto, il contesto di ricerca, di impresa e regolatorio europeo. È una partita molto complicata, mi sembra che ci siano tutte le volontà per poterci provare. Quello che posso dire per testimonianza diretta è che almeno dal punto di vista delle competenze relative al mondo della biomedicina e farmaceutico, io penso che Milano sia assolutamente all'altezza di questa sfida. Onestamente credo che sia una candidatura molto forte, poi non sarà solo una candidatura tecnica, ma insomma almeno da questo punto di vista abbiamo un'offerta veramente di grande livello. E secondo lei come andrà a finire? Ci sono troppe variabili, io credo che sia importante dimostrare una volontà di tutti gli attori che sono coinvolti in questo processo. Questo non è scontato, non è banale e penso possa essere una forza almeno sul tavolo della trattativa politica. Finalmente si riesce a fare un po' sistema, diciamo così. Sì, esatto, credo che poi questo sia la cosa più importante. Ancora una volta da qui parte un segnale di sistema e anche questo non è affatto scontato. Posso dire davvero che tutto il mondo di Milano, la Lombardia si sta muovendo su questa, e nazionale si sta muovendo su questa partita e questo è un lascito, comunque è un lascito che sarà importante per tutti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.